fa ciò che l'occasione richiede. Il libro di 1 Samuele che troviamo nella Bibbia costituisce certamente uno dei libri più importanti dal punto di vista storico, perché in esso è narrato l'episodio nel quale Israele decide di avere una monarchia, cioè di avere un re, rigettando di conseguenza la teocrazia, cioè la guida diretta che avevano avuto fino a quel momento dalla loro divinità. Poiché tutti dipendiamo dal tempo e dalle circostanze, anche questo episodio avvenne in modo del tutto apparentemente naturale, tanto normale, da non dare il minimo sospetto che si stavano adempiendo i grandi piani di Dio profetizzati secoli prima. Infatti, tramite Mosè l'Eterno disse: «Quando entrerai nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà, e ne prenderai possesso, e l'abiterai, se dici, voglio costituire sopra di me un re come tutte le nazioni che mi circondano, dovrai costituire sopra di te il re che l'Eterno, il tuo Dio, sceglierà». Deuteronomio 17, 14-15. I tempi erano maturi, e al tempo del profeta Samuele il popolo di Israele chiese un re. Samuele e l'Eterno erano fortemente dispiaciuti di questa loro richiesta, ma l'Eterno acconsentì alla loro petizione. Per una serie di circostanze apparentemente banali, un uomo della tribù di Beniamino di nome Saul si incontrò con il profeta Samuele. Il resto del racconto lo leggiamo ai capitoli 9 e 10 del primo libro di Samuele. L'indomani si alzarono presto. Allo spuntar del giorno Samuele chiamò Saul sul terrazzo, dicendo: «Alzati, e io ti lascerò partire». Saul si alzò, e ambedue, lui e Samuele, uscirono. Quando furono discesi alla periferia della città, Samuele disse a Saul: «Di al servo che passi davanti a noi e vada oltre, ma tu fermati un momento, perché ti possa annunciare la parola di Dio». Allora Samuele prese un vasetto d'olio e lo versò sul suo capo. Poi lo baciò e disse: «Non ti ha l'Eterno unto come capo della sua eredità? Oggi, quando sarai partito da me, troverai due uomini presso il sepolcro di Rachele sul confine di Beniamino a Zelza. Essi ti diranno: le asine che sei andato a cercare sono state ritrovate. Ora tuo padre ha smesso di essere in pensiero per le asine ed è preoccupato per voi, e va dicendo: che devo fare per mio figlio? Poi tu passerai oltre quel luogo e giungerai alla quercia di Tabor. Là incontrerai tre uomini che salgono ad adorare Dio a Betel. L'uno porterà tre capretti, l'altro porterà tre pani, e il terzo porterà un otre di vino. Essi ti saluteranno e ti daranno due pani, che riceverai dalla loro mano. Poi arriverai alla collina di Dio, Dov è la guarnigione dei Filistei, e là, giungendo alla città, incontrerai un gruppo di profeti che scenderanno dall'alto luogo, preceduti da un'arpa, un tamburello, un flauto e una cetra, e che profetizzeranno. Allora lo Spirito dell'Eterno ti investirà, e profetizzerai con loro, e sarai cambiato in un altro uomo. Quando questi segni ti saranno avvenuti, fa ciò che l'occasione richiede, perché Dio è con te». Dunque, Samuele, in armonia con il suo ruolo di profeta, profetizza a Saul ciò che gli sarebbe successo di lì a poco. Possiamo immaginare la gioia di Saul nel conoscere la volontà di Dio e nel verificarne l'adempimento. Una gioia, questa, che non tutti realizzano. Nel cuore del credente riposa un profondo desiderio di conoscere i propositi di Dio, desiderio che spesso non lascia in pace anche il più vicino a Dio. Ci è sempre radicato nel cuore il dubbio di non essere al centro della volontà di Dio, per quanto si preghi, si legga la parola di Dio, per quanto si serva il Signore. Quel filo di dubbio è come un tarlo che rode la gioia della sicurezza che si facciano le cose che piacciono a Lui, e per questo si è alla continua ricerca di avere una guida che dia sicurezza nelle nostre scelte. Abbiamo dei pali indicatori per compiere la volontà di Dio, ma spesso vorremmo qualcosa di più. Qualcosa che rassicuri. Ebbene, Saul ha avuto anche questo. Dopo che tutti i segni si sarebbero avverati, Samuele ordina una cosa a Saul che, applicata a noi uomini del XXI secolo, può risolvere alla radice ogni dubbio e titubanza in merito al conoscere la volontà di Dio. Il profeta Samuele disse a Saul: fa ciò che l'occasione richiede, o, secondo altra versione, fa ciò che avrai occasione di fare. Meraviglioso! Dopo aver specificato nei particolari quale sarebbe stata la volontà di Dio, dopo che Saul sarebbe stato investito dallo Spirito Santo, Samuele ordina a Saul di fare quello che per lui era più opportuno. Nessuna direttiva precisa, nessun consiglio, ma la libertà di fare ciò che lui riteneva più adatto. In effetti, quando in seguito Saul si trovò in difficoltà, non chiese all'Eterno che cosa doveva fare, non si mise in preghiera per ottenere una risposta, ma agì secondo il suo buon senso. È vero che più tardi commise un peccato grave, ma non perché fece ciò che riteneva più saggio, ma perché disobbedì palesemente ad un preciso ordine di Samuele, il quale gli aveva detto, 2 anni prima, di aspettare 7 giorni a Gilgal. Ma Saul fu impaziente ed, astolto contrariamente alla legge, si assunse il compito sacerdotale di offrire l'olocausto per la comunità. Un peccato dunque non per aver deciso di fare ciò che ebbe occasione di fare, ma perché trasgredì l'ordine di Dio. Queste riflessioni non hanno lo scopo di fare alcune valutazioni morali sulla vita di Saul, ma di mettere in evidenza una verità che è poco conosciuta, predicata e vissuta dai figli di Dio. Saul era stato unto re da Samuele e come tale non poteva permettersi di sbagliare, perché un suo errore avrebbe coinvolto anche tutto il popolo. Se sbagliava un semplice suddito, l'errore riguardava lui. Se sbagliava il re, l'errore si ripercuoteva su tutto il regno. Che garanzia aveva un re di compiere la volontà di Dio? Le stesse garanzie che aveva un qualsiasi suddito? Però, per Saul, era successo qualcosa di importante. Era stato investito dallo Spirito, aveva profetizzato, era stato cambiato in un altro uomo. E per questo, ora, poteva fare ciò che richiedeva l'occasione. Sono d'accordo con alcuni studiosi che la descrizione di ciò che avvenne a Saul non era l'esperienza della nuova nascita e dell'aver accettato il relativo dono dello Spirito Santo, e proprio per questo la verità che stiamo esaminando diventa ancora più sicura e importante. Se Saul non aveva realizzato la nuova nascita mediante il battesimo dello Spirito Santo, perché tale opera dello Spirito sarebbe successa dopo la glorificazione di Gesù, Giovanni 7:39, e se il re Saul poteva fare ciò che richiedeva l'occasione, quanto più potrà agire nello stesso modo un figlio di Dio? Se il re Saul, che non aveva l'assistenza continua dello Spirito di Dio, poteva agire senza chiedere continuamente la volontà di Dio, quanto più colui che ha lo Spirito Santo è libero di agire nello stesso modo. Questo è il grande messaggio del Nuovo Testamento. Essere in grado di agire nella vita, senza dover chiedere continuamente a Dio cosa fare, non è sintomo di poca spiritualità, ma la conseguenza di un cammino più vicino a Dio. Come vi è una vita autonoma sbagliata, vi è pure una dipendenza da Dio che ha la sua sede nell'immaturità. Un bambino che chiede a sua madre come comportarsi nelle faccende ordinarie della vita è normale, ma quando si tratta di una persona adulta, è lecito pensare che non vi sia stato il giusto processo di maturità. Perché allora ritenere un atto di maturità un figlio di Dio che in ogni cosa e situazione dipende da una precisa rivelazione di Dio? Il credente adulto confiderà in Dio ogni istante della sua vita, ma userà il discernimento spirituale maturato nel corso della sua esistenza per poter scegliere ad agire nel modo giusto. Il libro degli Atti narra un episodio molto attinente alle nostre riflessioni. Il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della Chiesa, fece uccidere di spada Giacomo, il fratello di Giovanni, e vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro e lo mise in prigione. La notte che precedeva il giorno nel quale Erode voleva far comparire Pietro per giudicarlo, Pietro, legato con 2 catene, stava dormendo in mezzo a 2 soldati. Ad un tratto, un angelo, battendo il fianco di Pietro, lo svegliò dicendo: «Alzati, presto!» E le catene gli caddero dalle mani. Quindi l'angelo gli disse: «Cingiti e allacciati i sandali!» Ed egli fece così. Poi gli disse: «Avvolgiti nel mantello e seguimi!» Ora, come oltrepassarono il primo e il secondo posto di guardia, Giunsero alla porta di ferro che conduceva in città, ed essa si aprì da sé davanti a loro, e usciti percorsero una strada. E all'improvviso l'angelo lo lasciò. Quando rientrò in sé, Pietro disse: «Ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e ha resa vana tutta l'attesa del popolo dei giudei». Quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Dunque, Pietro era stato soccorso miracolosamente tramite un angelo, tutti gli ostacoli per la sua liberazione furono rimossi, perciò la volontà di Dio in merito alla sua liberazione era precisa e inequivocabile. Ma, quando l'angelo lasciò l'apostolo fuori dalla città lungo una strada, Pietro non aveva più bisogno dell'intervento preciso di Dio per conoscere cosa avrebbe potuto fare, non si mise a pregare per sapere ora cosa voleva Dio da lui, ma usò il suo discernimento per recarsi alla casa di Maria, dove sapeva che molti fratelli di solito pregavano. Un figlio di Dio deve prendere coscienza che la volontà di Dio non è solo quella espressa nella sua parola, ma fa parte anche del suo discernimento. La Scrittura ci ordina di non appoggiarci sul nostro discernimento, ma dobbiamo usare il discernimento che proviene dalla conoscenza della parola, perché esso è la volontà di Dio. È evidente che non tutto ciò che si discerne giusto sia tale, ma è volontà di Dio che noi impariamo anche dagli errori. Anch'essi fanno parte della volontà di Dio. Una vita vissuta in questa prospettiva rende profondamente serena l'esistenza di chi ha posto la fede in Gesù, perché oltre a praticare ciò che è conforme al volere di Dio, farà anche ciò che l'occasione richiede, perché, secondo la sua promessa, Dio è con lui. Dicembre 2004. Ellero.